E mentre ragionavo così, il rumore stridulo d'una tubatura dell'acqua, del tutto simile ai lunghi gridi che le imbarcazioni da diporto facevano udire a volte la sera al largo di Balbec, mi fece riprovare, come già mi era successo una volta a Parigi in un grande ristorante, alla vista d'una lussuosa sala da pranzo semivuota, estiva e calda, ben più d'una sensazione semplicemente analoga a quella che provavo sul finire del pomeriggio a Balbec, quando, già stesi le tovaglie e disposta all'argenteria su tutti i tavoli, spalancate le vaste vetrate sulla diga senza un solo intervallo, senza un solo pieno di vetro o di pietra, mentre il sole scendeva lentamente sul mare, dove le imbarcazioni cominciavano a lanciare i loro gridi, io non dovevo, per raggiungere Albertine e le sue amiche a passeggio sulla diga, che scavalcare l'intelaiatura di legno, appena più alta della mia caviglia, lungo la quale, per aerare l'albergo, avevano fatto scorrere uno dopo l'altro tutti i vetri. Ma a questa sensazione non si mischiava il ricordo doloroso d'aver amato Albertine. I soli ricordi dolorosi sono quelli dei morti, ma non tardano a distruggersi, e anche intorno alle loro tombe non restano più che la bellezza della natura, il silenzio, la purezza dell'aria. Ciò che il rumore della tubatura dell'acqua aveva suscitato in me non era d'altronde soltanto l'eco, il duplicato d'una sensazione passata, ma la sensazione stessa, in questo caso, come in tutti i precedenti. La sensazione comune aveva cercato di ricreare intorno a sé il luogo d'un tempo, mentre il luogo attuale, che ne aveva preso il posto, si opponeva con tutta la resistenza della sua massa all'immigrazione d'una spiaggia normanna o d'una scarpata ferroviaria in un palazzo di Parigi. La sala da pranzo marina di Balbec, con le sue tovaglie damascate, predisposte come tovaglie d'altare per accogliere il tramonto del sole, aveva cercato di scuotere la solidità di Palazzo Germain, di forzarne le porte, e per un attimo aveva fatto vacillare i divani intorno a me, così come un altro giorno i tavoli del ristorante di Parigi. Sempre in queste resurrezioni, il luogo lontano, generato attorno alla sensazione comune, si era accoppiato per un istante, come un lottatore, al luogo attuale. Vincitore era stato sempre il luogo attuale. Sempre il vinto m'era sembrato il più bello, così bello da farmi rimanere in estasi, sul selciato ineguale, come davanti alla tazza di tè, cercando di trattenere nei momenti in cui apparivano, di far riapparire ogni volta che mi sfuggivano, quella Combray, quella Venezia, quella Balbec, invadenti e ricacciate che sorgevano per poi abbandonarmi in quei luoghi nuovi ma permeabili al passato. E se il luogo attuale non avesse ripreso sollecitamente il sopravvento, io credo che avrei perso conoscenza, perché queste resurrezioni del passato, per quell'istante che durano, sono così totali da non costringere soltanto i nostri occhi a non vedere più la camera che ci sta intorno per guardare gli alberi lungo i binari o la marea che sale. Costringono anche le nostre narici a respirare l'aria di luoghi lontani, la nostra volontà a scegliere fra i diversi progetti che ci propongono, l'intera nostra persona a credersene circondata o, perlomeno, ad esitare fra loro e i luoghi del presente, nello stordimento di un'incertezza simile a quella che si prova, a volte, davanti a una visione ineffabile, quando si sta per prendere sonno. Così, in ciò che l'essere 3 o 4 volte resuscitato dentro di me aveva appena assaporato, potevano esserci, certo, dei frammenti di esistenza sottratti al tempo. Ma tale contemplazione, sebbene d'eternità, era fuggitiva. E tuttavia, io sentivo che il piacere che essa m'aveva dato a rari intervalli nel corso della mia vita era il solo piacere, fecondo e vero. L'irrealtà che segna gli altri non è forse abbastanza evidente, vuoi nella loro incapacità di soddisfarci, come per esempio il caso dei piaceri mondani, che causano tutt'al più il malessere provocato dall'ingestione d'un cibo infame, o dell'amicizia, che è una simulazione, giacché per quanto possano essere le ragioni morali che lo inducono a farlo. L'artista che rinuncia a un'ora di lavoro per conversare con un amico sa di sacrificare una realtà per qualcosa che non esiste. Gli amici, essendo tali solo in quella dolce follia che ci prende nel corso della vita, alla quale ci prestiamo, ma che dal fondo della nostra intelligenza consideriamo l'errore d'un folle che creda vivi, immobili e conversi con loro. Vuoi, nella tristezza che tien dietro alla loro soddisfazione, come quella che avevo provata il giorno in cui m'avevano presentato ad Albertine, al pensiero d'essermi dato un da fare d'altronde abbastanza piccolo, per ottenere una cosa, conoscere quella fanciulla, che mi sembrava piccola solo perché l'avevo ottenuta. Anche un piacere più profondo, come quello che avrei potuto provare quando amavo Albertine, non era percepito in realtà che all'inverso, attraverso l'angoscia che provavo quando lei non c'era, tant'è vero che quando ero sicuro del suo arrivo, come il giorno che era tornata dal Trocadero, m'era parso di non provare più d'una vaga noia, mentre mi esaltavo sempre di più a mano che approfondivo, con una gioia crescente. Il rumore del coltello o il sapore della tisana che aveva fatto entrare nella mia camera, la camera di zia Léonie, e al suo seguito tutta Combré e le sue due parti. Questa contemplazione dell'essenza delle cose, ero dunque ben deciso adesso a non perderla di vista, a fissarla, ma come? Con quale mezzo? Certo, nel momento in cui la rigidità del tovagliolo mi aveva restituito Balbec, per un istante la mia immaginazione era stata accarezzata non soltanto dalla vista del mare, quale era quel mattino, ma anche dall'odore della stanza, dalla velocità del vento, dal desiderio di far colazione, dall'incertezza fra le diverse passeggiate, tutto quanto collegato alla sensazione del tessuto come le mille ali dell'angelo che fanno mille giri al minuto. Certo, nel momento in cui il dislivello fra le due selci aveva prolungato in tutti i sensi e in tutte le dimensioni le immagini disseccate e consunte che mi erano rimaste di Venezia e di San Marco, con tutte le sensazioni che avevo provate là, accordando la piazza alla chiesa, l'imbarcadero alla piazza, il canale all'imbarcadero, e a quel che vedono gli occhi, il mondo di desideri visibile solo alla mente, io ero stato tentato, se non data la stagione, d'andare a passeggio sulle acque per me soprattutto primaverili di Venezia, perlomeno di ritornare a Balbec. Ma non indugiai un solo istante su questo pensiero. Non soltanto sapevo che i paesi non erano quali il loro nome me li dipingeva, e mi succedeva ormai unicamente nei sogni, dormendo, che mi si stendessero davanti luoghi fatti della pura materia, completamente diversa dalle cose comuni che si vedono, che si toccano, di cui erano fatti quando li avevo immaginati. Ma anche per quanto concerneva immagini di un altro genere ancora, quelle del ricordo, sapevo che la bellezza di Balbec non l'avevo mai trovata quando ero a Balbec, e persino quella che me n'era rimasta, quella del ricordo, non era più la stessa ritrovata al mio secondo soggiorno. Avevo sin troppo sperimentato l'impossibilità di raggiungere nella realtà ciò che stava in fondo a me stesso. Sapevo che in piazza San Marco non avrei ritrovato il tempo perduto più di quanto l'avessi ritrovato nel mio secondo viaggio a Balbec con il mio ritorno a Tansonville per vedere Gilbert e che il viaggio, limitandosi a propormi una volta di più l'illusione che le vecchie impressioni esistessero al di fuori di me, all'angolo d'una determinata piazza, non poteva essere il mezzo che cercavo. E non volevo farmi ingannare una volta di più, perché si trattava per me di sapere finalmente se fosse davvero possibile raggiungere ciò che, sempre deluso com'ero stato in presenza dei luoghi e degli esseri, avevo, sebbene una volta il pezzo da concerto di Vinteuil m'avesse fatto sembrare vero il contrario, creduto irrealizzabile. Non avrei dunque tentato altre esperienze su una strada che, lo sapevo da molto tempo, non conduceva a niente. Impressioni come quelle che cercavo di fissare non potevano non svanire a contatto con un godimento immediato che era stato impotente a farle nascere. Il solo modo per goderne di più era tentare di conoscerle più compiutamente là dove esse si trovavano, vale a dire, in fondo a me stesso, di renderle più chiare, sin nella loro profondità. Non avevo potuto conoscere il piacere a Balbec, non più di quello di vivere con Albertine, che solo troppo tardi ero riuscito a percepire. E la ricapitolazione che andavo facendo delle delusioni della mia vita in quanto vissuta e che mi inducevano a credere che la sua realtà dovesse stare altrove che nell'azione, accostava fra loro in modo non puramente fortuito e seguendo le circostanze della mia esistenza, forme diverse di disinganno. Sentivo che la delusione del viaggio, la delusione dell'amore, non erano delusioni diverse, ma i vari aspetti che prende, a seconda del fatto cui si applica, la nostra impotenza a realizzarci nel godimento materiale, nell'azione effettiva. E ripensando alla gioia extratemporale suscitata dal rumore del cucchiaio o dal sapore della Madeleine, mi dicevo: era dunque questa la felicità proposta dalla piccola frase della sonata a Swan, che s'era sbagliato assimilandola al piacere dell'amore e non aveva saputo trovarla nella creazione artistica. La felicità fattami presentire come qualcosa di ultraterreno, più ancora che della piccola frase della sonata, dall'appello scarlato e misterioso di quel settimino che Swan non aveva potuto conoscere perché era morto, come tanti altri, prima che la verità fatta per loro venisse loro rivelata. Essa, d'altronde, non gli sarebbe servita, perché poteva certamente quella frase simboleggiare un appello, ma non creare energie né fare di Swan lo scrittore che non era. Ma un attimo dopo, avendo ripensato a queste risurrezioni della memoria, mi resi conto che qualche volta, e già a Combré, dalla parte di Germain, impressioni oscure avevano in altro modo sollecitato, come quelle reminiscenze, il mio pensiero, ma nascondendo non una sensazione d'altri tempi, bensì una verità nuova, un'immagine preziosa che cercavo di scoprire con sforzi dello stesso genere di quelli che facciamo per riportarci alla mente qualcosa, come se le nostre idee più belle fossero come arie musicali che ricordassimo senza averle mai sentite prima e che ci sforzassimo di ascoltare, di trascrivere. Ricordai con piacere, perché mi provava che a quel tempo ero già lo stesso e che si trattava d'un tratto fondamentale della mia natura, ma anche con tristezza, pensando che da allora non avevo fatto alcun progresso. Come già a Combré io fermassi con attenzione davanti alla mente qualche immagine che aveva attratto con forza il mio sguardo, una nube, un triangolo, un campanile, un fiore, un sasso, sentendo che sotto quei segni c'era forse qualcosa d'affatto diverso che dovevo sforzarmi di scoprire, un pensiero di cui essi erano la traduzione, al modo di quei caratteri geroglifici che sembrano rappresentare soltanto oggetti materiali. Questa decifrazione era difficile, certo, ma era la sola che desse qualche verità da leggere. Le verità che l'intelligenza afferra direttamente a giorno, nel mondo della piena luce, hanno qualcosa di meno profondo, di meno necessario di quelle che la vita ci comunica, malgrado tutto, in un'impressione, materiale, perché entra in noi attraverso i sensi, ma di cui possiamo estrarre lo spirito. Insomma, in un caso come nell'altro, si trattasse di impressioni come quella suscitata in me dalla vista dei campanili di Martinville, o di reminiscenze come quella del dislivello delle due selci o del sapore della Madeleine. Bisognava cercare di interpretare le sensazioni come segni di altrettante leggi e idee, tentando di pensare, ossia di far uscire dalla penombra quel che avevo sentito, di convertirlo in un equivalente intellettuale. Ora, cos'era questo mezzo che mi sembrava il solo se non creare un'opera d'arte? E già le conseguenze si affollavano nella mia mente. Infatti, si trattasse di reminiscenze del genere rumore del coltello o sapore della Madeleine o di quelle verità scritte con l'aiuto di figure di cui cercavo di cogliere il senso col mio pensiero, dove esse, campanili o erbacce, componevano una cabala complicata e fiorita. Il loro carattere primo era che non ero libero di sceglierle, che mi erano date così com'erano. E sentivo che doveva essere questo il loro marchio di autenticità. Non ero andato a cercarle, le due selci ineguali del cortile sulle quali ero incespicato, ma proprio il modo fortuito, inevitabile, in cui la sensazione era stata incontrata, garantiva la verità del passato che questa risuscitava, delle immagini che scatenava, perché sentiamo il suo sforzo per risalire verso la luce, sentiamo la gioia della realtà ritrovata. È la garanzia anche della verità di tutto l'insieme di impressioni contemporanee che si trascina al seguito, con quell'infallibile proporzione di luce ed ombra, di rilievo ed omissione, di ricordo ed oblio, che la memoria o l'osservazione coscienti non conosceranno mai.